Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, per una trasmissione che sta in bilico tra il politicamente corretto e la voglia di censura. Questo è un tema di cui molto oggi si parla e noi lo faremo con addetti ai lavori proprio dell'editoria per ragazzi. Con Alessandro, direttore della nostra radio, sentiremo il parere di Mattia Tombolini di Momo Edizioni, mentre con Simona Sagone di Yucali, nostra inviata al Salone del Libro per Ragazzi di Bologna, ascolteremo il parere prima di Anselmo Roveda della rivista Andersen e poi quello di Arianna Papini, scrittrice, pittrice, illustratrice, formatrice, nonché docente di arte e terapeuta. Pure la polemica sul politicamente corretto dopo che la casa editrice che edita i libri di Roald Dahl, quello della fabbrica cioccolata, ha deciso di censurare la parola obesi perché è offensiva per i ragazzi che hanno qualche chilo di troppo. È giusto o non è giusto in qualche modo cambiare i lavori del passato rispetto all'etica contemporanea? La casa editrice, dopo le polemiche, ha forse peggiorato la sua situazione proponendo sia la versione purgata che quella originale. Ma se è giusto o non è giusto, abbiamo ascoltato il parere di Mattia Tombolini della Momo Edizione, una casa editrice romana che vede la questione proprio dalla prospettiva dell'editoria indipendente, i libri per l'infanzia inclusivi e la polemica proprio a partire da Roald Dahl. Parliamo di un tema che sta facendo discutere in Italia negli ultimi giorni, ovvero l'iniziativa della casa editrice Penguin di rivedere alcuni testi, alcune parole dei testi di Roald Dahl, in particolare togliendo parole politicamente scorrette come grasso, brutto, eccetera, da alcuni testi, d'accordo ovviamente con gli eredi dell'autore. Per parlare di questo tema noi vogliamo sentire un editore indipendente, siamo al telefono con Mattia Tombolini di Momo Edizioni, che saluto, buongiorno. Ciao, buongiorno a te e grazie per l'invito. Momo si occupa anche di letteratura per bambini e bambine e volevo chiederti innanzitutto che impressione ti ha fatto questo tema, questa polemica che è nata e quanto è importante ovviamente il linguaggio quando si parla di letteratura per i più piccoli. No, guarda, che impressione mi ha fatto questa polemica? Diciamo che è una polemica delle tante. Quindi si somma a varie polemiche che ci stanno spesso, ormai sempre più spesso sulle questioni insomma del linguaggio, si somma a tutto quel dibattito che c'è a volte bilanciato in un modo, a volte in un altro, su cosiddetto politicamente corretto, sulla cancel culture, tutte queste cose qui che penso abbiate pure voi affrontato, insomma che spesso tornano nel dibattito. Quindi secondo me si è sommata un po' a quella roba lì anche impropriamente in parte, e come tutte le cose ultimamente nel mondo della anche della comunicazione eccetera diventa subito una questione di schieramenti praticamente, no? Quindi chi è a favore, chi è contro allora è quello che penso sia un po' più sfumata, un po' più complicata di così. Ma noi sì, ci occupiamo di, in particolare di letteratura, insomma di libri per l'infanzia, per ragazzi e non solo, e quindi ce lo poniamo ovviamente, essendo questo il nostro lavoro, ce lo dobbiamo porre il problema del linguaggio, ce lo poniamo tantissimo. Dopodiché è una cosa che, proprio perché ce lo poniamo, ci facciamo tantissimo domande, ci chiediamo anche in che maniera i libri che facciamo possano essere più leggibili, più comprensibili, possano avvicinare, perché il nostro scopo è quello di avvicinare a dei contenuti che secondo noi sono fondamentali per, tra virgolette, cambiare le cose. Siamo convinti che se si parla di alcune tematiche a certe età, per esempio anche, non so, la questione della sessualità, del genere, ma anche del lavoro, ma anche della resistenza, ma anche delle migrazioni, se ne parla anche di cose complicate, e quindi non sempre edulcorate, quando si è piccoli, e visto che i bambini si fa fanno tante domande e spesso vogliono anche parlare cose più difficili che non siano sempre le solite cose, forse si possono in qualche modo, diciamo, prevenire dei grandi problemi culturali e sociali che poi ci sono dopo. Ovviamente per fare questo c'è un dibattito enorme, c'è una difficoltà, perché spesso anche la proposta che arriva dall'alto, anche da chi si occupa di questo, non fa i conti poi con la concretezza delle cose, dei quartieri in cui vivi, delle fasce a cui ti riferisci, eccetera. Quindi c'è il dibattito. Sulla questione specifica di Dal, penso che si stia facendo tanto discutere del è giusto o meno, ma secondo me, diciamo che sta roba andrebbe pensata più sui libri che si fanno adesso, più che rivedere, diciamo, tutto ciò che è stato fatto. Questo al di là degli eredi, di cosa ne pensano. In questo caso ci sia un tipo di interesse che è un interesse di mercato, e quindi bisognerebbe un po' interrogarsi qual è l'interesse di questo mercato qui, cioè in particolare qua una piattaforma che in qualche modo interviene. Mi fa pensare molto a Boris, diciamo, quello che ho letto. Non so se avete visto l'ultima serie, insomma. Guardando il catalogo di Momo, voi prediligete, diciamo, testi originali, però una domanda, diciamo, tecnica che ti vorrei fare: se alcuni tuoi colleghi editori, appunto, in questa pratica di edulcorare testi rendendoli più politicamente corretti di grandi classici, è comune o appunto è una cosa che scopriamo adesso con Roald Dahl? Sinceramente è una domanda difficile che mi fai. Allora, nel mondo, diciamo, redazionale, editoriale, in generale il testo è sempre qualcosa che è frutto di, come dire, anche un lavoro collettivo, ma anche di una mediazione che c'è tra l'autore e la redazione, quello che si aspetta anche il cosiddetto mercato con cui uno fa i conti, questo è vero. Però questo è il lavoro che noi facciamo, tutte le cose che noi produciamo, diciamo, direttamente, per cui c'è questo lavoro qui, che è un lavoro che immagino che Dal avrà fatto in sede di pubblicazione, se l'ha fatto. Per cui sui testi più vecchi, quindi le riedizioni, eccetera, che io sappia, solitamente si tiene a mantenere l'opera così com'è. È più complicato, per esempio, quando si parla di traduzioni, in quel caso, insomma, ci possono essere traduzioni molto, molto diverse l'una dall'altra, per esempio anche di testi classici, anche di testi politici, filosofici e così via. Quindi, cioè, è un dibattito che ci sta, fondamentalmente, è abbastanza articolato, direi. Prendo spunto da una cosa che hai detto tu prima per farti un'ultima domanda: quindi è meglio costruire nuovi immaginari? Come la vedo io, sì. Poi nello specifico Dal è uno che ha lavorato su un linguaggio in maniera molto, molto bella, secondo me. Per esempio in Grande Gigante Gentile, cioè addirittura inventa un lessico. Poi, insomma, io qua non so neanche, poi nello specifico non mi sono andato a vedere quali sono state le modifiche che sono state fatte, però diciamo che se poi si prende questa piega si dovrebbe adottare un po' su tutto, quindi per esempio si potrebbe decidere che alcuni testi che fanno parte della letteratura, che non so, i Promessi Sposi, che non è che siano politicamente corretti proprio come storia, in qualche modo non vengono neanche più proposti, cioè, ma ci può anche stare che uno scelga a quel punto, appunto, di non proporre direttamente il testo invece che di cambiarlo, e cioè questo è quello che io penso. Diciamo, investiamo sulla nuova letteratura a questo punto e teniamo i classici, per quello che sto contestualizzandoli fondamentalmente. Agosto Snob, il più moscioso e stupido. Agosto Snob, bambaccio e bile, così ciccione ed infantile. Sarà un bel lancio da manuale, un gran risucchio verticale. Nemmeno un graffio né un dolore. Agosto Snob non soffrirà, Agosto Snob non soffrirà. Girando lente lo schiacceranno come un carro. Lo bolliremo ancora un po', pestando fino all'ultimo, pregando Dio mattino e sera. Ogni miracolo si avvera, questo miracolo si avvera. È un ruscellino fastidioso, ora tutti amato e riverito, e non suscita ancora un tramolino.